Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Le frecce dell'orologio di Santa Maria giravano con inesorabile lentezza mentre don Sebastiano stendeva i suoi atti, don Pasqualino faceva i conti delle sue 100 industrie, don Ricciotti si macerava l'anima perseguendo il sogno di Loreneddu, Poddanzu e Dirripezza aspettavano l'elemosina, i contadini di Seuna rotolavano coi loro carri sui macigni messi a nudo dalle piogge, i ladri di San Pietro seguivano le tracce delle greggi per le tanche incustodite e Monsignor Canepa componeva le sue omelie. Se invece di quell'immenso quadrante che il vescovo Dettori aveva fatto issare sul campanile verso la fine del secolo ci fosse stato un grande specchio, i nuoresi avrebbero forse misurato meglio il tempo nella devastazione dei loro corpi, perché non c'è dubbio che ognuno dei personaggi di questa storia invecchiava. Ma può darsi che la vita di un paese si svolga in una unità di tempo e di luogo come le antiche tragedie, e la successione degli eventi abbia la misteriosa fissità del cimitero. Vista da Dio nel giorno del giudizio, credo che la vita appaia veramente così. La società del caffè Tettamanzi non era sostanzialmente mutata. I clienti erano aumentati perché la tendenza all'imborghesimento dei pastori e dei contadini creava disoccupazione, ma la distribuzione delle parti era sempre la stessa con Bartolino e Boelle Zicheri, il farmacista che tenevano le file, Fileddu e gli altri che facevano le spese. Se si fosse potuta bloccare l'azione come nei film, quando la macchina si guasta, si sarebbero viste tante mani alzate per aria, tanti visi estatici con gli occhi sbarrati sulle carte del 3-7, Fileddu perduto nella giacca troppo larga con lo sguardo di cane fisso sul suo boelle, Pietro Catte con l'occhio bovino che fissava il bicchiere colmo sul tavolo, Don Ricciotti col suo ghigno che era tornato al caffè dopo la sua folle avventura. Tutto come 10 anni prima, 20 anni prima, anzi dopo l'inizio del tempo. E invece la realtà non era quella. Chi avesse ad esempio guardato attentamente le mani di Boelle Ciceri, anche quando pareva più spensierato e organizzava la festa a spese di Fileddu o di Maestro Manca, avrebbe visto che esse da qualche tempo tremavano. E non uno, ma 100 occhi le guardavano, tutti quelli che ridevano dei suoi lazzi e ne seguivano il progredire del tremore. Ora non riusciva neppure a portare alle labbra il bicchiere, sebbene bevesse poco, senza versarne più di una goccia sul bellissimo vestito. Quando egli se ne andava, era un ammiccare degli occhi, anche il passo qualcuno giurava che era traballante, e poi un incrociarsi di pronostici. Ha corso la cavallina da giovane e ora la paga, dicevano, e parlavano con voluttà di paralisi progressiva o di altri mali peggiori, semmai ne esistono. Boelle, del resto, non era mai stato così allegro come da quando gli era sopraggiunto il sintomo di quel male. Pareva invasato dalla furia di vivere. Onde Maestro Manca lo seguiva con l'occhio appannato dall'ultimo bicchiere e dall'alto della sua cultura diceva a voce alta «Et exultabunt ossa umiliata». C'era come un feroce sadismo, o peggio ancora come un senso di vendetta nei confronti di questo tronco martellato. Ciascuno di loro pareva essere colpito in boelle. Il gaudente farmacista rifletteva, ora che era colpito, l'inutilità del vivere di ciascuno di loro. E perciò lo odiavano, perché odiavano se stessi. Morrà, non morrà, morrà certamente, ne avrà per 3 mesi. Solo Fileddu, nell'oscurità della sua mente, aveva come il barlume di un pericolo che corresse Boelle, e quando questi si alzava, lo seguiva passo passo fino a casa. Il peggio è che quello che più di tutti aveva notato il tremolio delle sue mani era lo stesso Boelle. E come i farmacisti sono un poco medici, aveva fatto subito la terribile diagnosi. Forse da tempo, in mezzo ai clamori del caffè Tettamanzi, se l'aspettava. E forse avvertiva per altri segni che non apparivano agli occhi degli oziosi del caffè che la sua vita volgeva alla fine. Cosa strana provava verso di sé lo stesso sentimento di odio che gli altri provavano per lui. Era come se chi si apprestava a distruggerlo distruggesse se medesimo, poiché un giorno lontano lo aveva creato e questo gli dava la gioia sadica del nulla. Secondo i suoi calcoli, ne avrebbe avuto ancora per qualche mese. Doveva predisporre tutto, perché voleva portarsi tutto con sé. Come sarebbero morti con lui gli amici del caffè, tutti i nuoresi, tutto il mondo, così voleva che morissero tutti i suoi beni, che nessuno potesse più dire questa è la casa di Boelle, questa è la tanca di Boelle. Moriva a scapolo, quindi era già come se non fosse mai vissuto. Domattina avrebbe cercato di Don Sebastiano perché lo aiutasse nel testamento. Ma prima voleva scrivere subito lui, con la mano tremante, due righe che erano il suo vero testamento. Come tutti gli scapoli nuoresi, che erano una legione, mi pare di averlo già detto, odiava i preti. Gli apparivano tutti, uno per uno. Canonico Floris, prete Porco, prete Dell'Ussu, canonico Fele. Questi erano la chiesa per lui. Ma così come erano Beoni, arruffoni, ipocriti, rissosi, erano testimoni di Dio, di una vita che non finiva. E questo non poteva sopportare. Si avvicinò allo scrittoio, intinse la penna nel calamaio e scrisse con la mano che nello sforzo gli parve ferma. Al mio funerale non voglio né preti né croci. Il mio corpo si è gettato nella nuda terra senza nome. Sostò un poco, poi ricordando i timori di Don Gaetano Pilleri, che cacciava con la frusta il prete quando osava entrare nel tabacchino per la benedizione pasquale, aggiunse: «Sono nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, ma se col progredire della malattia dovessi cambiare idea, la volontà che vale è quella di oggi, e cioè che non voglio né preti né croci». Mise il foglio in una busta e andò a letto. L'indomani mattina, alle 7, era già nella farmacia, ma non era lì per ordinare i barattoli istoriati che facevano mostra dietro il banco. Attendeva che passasse davanti alla porta Don Sebastiano, che, come usavano tutti i signori del tempo, andava di persona a comprare la carne nella vicina piazza San Giovanni, dove allora era il mercato. Infatti, dopo poco lo vide scendere col cartoccio giallo portato avanti a guisa di un mazzo di fiori, come la vita gli parve che potesse essere bella in quel momento. E gli fece cenno di entrare. Nel deserto del retrobottega bisbigliarono per un quarto d'ora. Don Sebastiano disse che avrebbe fatto al catasto l'elenco di tutti i suoi beni, perché neppure lui, che aveva raccolto due eredità di vecchie zie materne, sapeva quel che possedeva, e si sarebbero rivisti il sabato sera. «Sebastiano, ascolta», disse Boelle alzandosi, «guarda questa busta. Qui ci sono le mie vere volontà. Io te l'affido. Tu l'aprirai davanti al mio cadavere, ma devi giurarmi che farai quel che c'è scritto. Ti aspetto sabato». L'idea di Boelle era semplicissima. Egli voleva diseredare tutti i nipoti, e ne aveva molti, di poveri e di ricchi. Non voleva attaccare la sua vita a nessuno. Perciò aveva anche scartato l'idea di beneficare quel miserabile di Fileddu. Tutti i suoi beni avrebbe lasciato all'ospedale. Li avrebbe cioè gettati nella fossa comune, restituiti alla mano di tutti, dove avrebbero perduto ogni connotato. Era anzi probabile che l'ospedale li avrebbe barattati all'asta, che è come un disperdere le ceneri al vento. Il pensiero che questa fosse beneficenza non gli passava neppure per la mente. Non c'era da beneficare nulla e nessuno. Si trattava solo di sparire, con la stessa indifferenza con la quale un giorno remoto era apparso. Si sentiva appagato di questa decisione. Ora l'importante era che nessuno si accorgesse che era male incamminato, e perciò riprese a frequentare il caffè, abbandonandosi a scherzi sempre più rumorosi che lo rendevano affannato e paonazzo, senza accorgersi delle strizzatine d'occhio che correvano da un capo all'altro della sala. Morì quasi d'improvviso in una notte di maggio così tiepida che aveva lasciato aperte le finestre della sua stanza. E dalle finestre aperte e dalla porta chiusa della farmacia capirono che qualcosa di grave era avvenuto. Sfondarono la porta e lo trovarono tranquillo disteso. Subito accorsero i parenti e piangevano e cantavano le lodi del morto. Avvertito arrivò Don Sebastiano, il quale aprì la busta che gli era stata affidata. Fu un coro di proteste, la vergogna per la famiglia, la dannazione dell'anima. Poi Don Sebastiano informò che aveva lasciato tutti i suoi beni all'ospedale e così le proteste finirono. I funerali si svolsero quel giorno stesso. Da tutte le parti la gente era corsa per vedere un interro senza preti. Il silenzio delle campane incombeva sulla città, mentre la bara passava fra la poca gente che nemmeno si ricordava di scoprirsi. Così arrivarono al cimitero, poi la gente tornò indietro, o almeno credette di tornare, perché non sapeva che Boelle se l'era trascinata nel sepolcro. Ma proprio sulla soglia avvenne un fatto inatteso. Fileddu aveva adempiuto al suo dovere accompagnando alla tomba Boelle, ma ebbe la disgrazia di scontrarsi con Casizolu, l'invidioso rivale. Casizolu diede sfogo al rancore che covava da anni e si mise a urlare: «Morto! Morto quello che ti dava le giacche!» Fileddu, che non aveva capito nulla, era lontano che quello gridava ancora: «Morto! Morto quello che ti dava le giacche!» La sera al caffè i burloni volevano che Fileddu sfidasse Casizolu, ma Fileddu era triste perché il suo grande amico non era venuto. L'ultima volontà di Boelle Zicheri fu realizzata solo in parte, perché qualche idiota dell'ospedale trovò sconcio che un simile benefattore se ne stesse a marcire nella stessa terra di Poddanzu o di Dirripezza, e gli fece fare, coi soldi del morto, un tumulo lastricato di marmo e sopra il ritratto in smalto fissato con due borchie di bronzo. È difficile vederlo perché gli sono cresciuti intorno i mausolei dei nuovi ricchi, e quando riesci a scostare le erbe matte che hanno invaso la tomba, i suoi occhi appassiti ti guardano tristemente, perché tu non lo conosci, ma egli ti conosce benissimo. Queste però sono cose senza importanza, perché nessuno andrà a cercare il farmacista nel vecchio cimitero. Invece la morte di Boelle ebbe uno strano seguito, seppure non fu una coincidenza. Il caffè Tettamanzi aveva ripreso il suo solito aspetto. Il vuoto lasciato dal morto si era presto colmato. Per qualche giorno si era parlato male di lui, soprattutto perché aveva destinato i suoi beni all'ospedale. Tutto poteva comprendere quella folla di diseredati, meno la carità. Bartolino, rimasto solo, continuava a imporre la sua statura di continentale e raddoppiava i suoi scherzi. Solo era diventato più litigioso. L'unico che mostrasse di essere colpito dalla morte di Boelle pareva Maestro Manca, ma era perché quei giovanotti che gli facevano corona, sapendo il terrore che aveva della morte, gli dicevano che la prossima volta era la sua. Egli digrignava i denti e si premeva con l'indice la vena della tempia, che ogni giorno sembrava più grossa. Pietro Catte girava intorno gli occhi bovini. Tutti sapevano che aspettava la morte della zia per ereditare la casa e il vigneto, e gli insinuavano il sospetto che anche lei facesse come Boelle. Dalla finestrucola in cima al palazzo, il dottor Nurra tendeva sempre le orecchie per raccogliere le ultime novità. I clienti che se n'erano accorti cominciarono a inventare le panzane più grosse che si potessero immaginare, ma soprattutto sparsero la voce che egli avesse un tumore alla gola. No, al polmone, no, all'intestino, e la sua ora era segnata. Così che egli, spaurito e pieno di dolori da una parte e dall'altra, faceva rientrare la testa e chiudeva fra le risate di tutti la finestrella. Così le frecce dell'orologio giravano vorticosamente e tutto pareva come sempre. Se non che, un giorno, Boelle era morto da un mese, qualcuno cominciò a notare che Fileddu non si faceva vedere. Dove poteva essere andato? Anche Casizolu, che lo aspettava sempre al varco per gridargli «Morto quello che ti dava le giacche», era sorpreso e fiutava chissà quale tradimento. Alla fine qualcuno andò a chiedere di lui nella spelonca dove abitava. Nessuno sapeva niente. Allora chiamarono i carabinieri e questi, con una spallata, buttarono le quattro assi che facevano da porta. Apparve uno spettacolo pauroso. Fileddu giaceva sulla stuoia in mezzo agli stracci, immobile, con gli occhi stravolti. Al suo fianco la madre, quasi cieca, lo fissava col bianco degli occhi, aspettando che il figlio si svegliasse. Quando vide tanta gente, parve che capisse e uscì, brancolando nel sole. La notizia che Fileddu era morto si sparse in un baleno per la città. E allora avvenne uno dei fatti più strani, che ancora non riesco a spiegarmi. Neanche si trattasse di accompagnare Don Pasqualino o Don Sebastiano, cominciarono a muoversi dalle loro case in cima a San Pietro le donne del popolo, e poi i pastori, e poi persino i principali della grande dinastia dei Corrales. La spelonca di Fileddu era ai margini di Seuna, quasi più nella sconsolata campagna, e bisognava attraversare tutta Nuoro per arrivarci. Lungo il cammino uscivano dalle loro civili dimore i signori di Santa Maria. Mancava Don Pasqualino, ma non poteva muoversi per la gotta, e fu come un torrente che scendesse per il corso fino alla tana dove la bara che un falegname di Seuna aveva regalato giaceva per terra in attesa del trasporto. Qualcuno aveva ordinato che le campane suonassero lente, come era l'usanza per i ricchi, e il rintocco funebre scandiva il pensiero di tutti. Finalmente arrivò prete Porcu col diaconetto. Era fuori della grazia di Dio, perché non s'aspettava tutta quella gente che avrebbe tirato in lungo le cose. Finalmente quattro gagliardi issarono sulle spalle la cassa e prete Porcu si avviò salmodiando. Cercava di affrettare i tempi perché gli sembrava fiato sprecato, ma i nuoresi riempivano le strade. Le donne si affacciavano ai balconi piangendo. Percorsero un tratto di corso, ma giunti agli alberetti, da dove si diparte la via selciata verso San Pietro, il prete accennò a deviare. I portatori della cassa si fermarono, si fermò tutto il corteo. «Andiamo avanti per il corso», disse Pascale Farranca. «Io ho il diritto di seguire la via più breve», rispose prete Porcu, e proseguì, senza voltarsi. Allora accadde una cosa incredibile. Pozzeddu, che se vi ricordate era sacrista nelle grazie, ma aveva imparato il mestiere del prete, scambiò un'occhiata con Pascale Farranca e si mise in testa al corteo. «In paradisum perducant te angeli», cominciò a cantare con voce baritonale. E mentre il prete se n'andava senza morto verso il cimitero, Fileddu passava con l'immenso seguito nel corso, di cui era finalmente diventato il vero signore. Pozzeddu procedeva sempre più solenne con la sua casacca frusta in luogo della cotta e della stola. Era pensabile che il prete l'avrebbe cacciato fuori della chiesa al ritorno, ma proprio per questo la sua gola era ancora più spiegata. Dies ire, dies illa. Nel silenzio profondo degli uomini e delle cose, pareva che i nuoresi offrissero a Dio questo suo figlio demente, a espiazione del peccato di essere buoni o cattivi, ricchi o poveri, sani o malati, del peccato di essere vivi. Così Fileddu si ebbe la sua gloria, anche se durò quanto le palate di terra che Milieddu gettò frettolosamente e rumorosamente sopra la sua cassa.